Gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Una volta andavo a correre, andavo in palestra, andavo in piscina. Ora sono un obeso perché ascolto la zanzara. Mia moglie mi vuole lasciare perché torno sempre dal lavoro dopo le 9. Ho salvato e registrato in uno scrigno di hard disk tutte le puntate della zanzara. Il mio tesoro! Cruciani, te che ne pensi delle teorie complottistiche sulla morte di Bonanno? Ho visto dei post su Facebook di gente che dice che è stato fatto fuori dalle multinazionali del tabacco. Comunque sia, riposi in pace. No, ma ragazzi, non c'è nessuna teoria complottista, è semplicemente un personaggio, quello che crede nelle scie chimiche, eccetera, eccetera, che si chiama Rosario Marciano. Rosario Marciano, ricordate, sì, Rosario Marciano, il quale scrive che da una sua analisi, lui non fa parte né della polizia stradale né di quelli che sono intervenuti, non sa assolutamente nulla. Come su tutto il resto? Prende delle foto su internet e sostiene che ci sarebbe stata una terza macchina che avrebbe spinto la macchina di Buonanno contro l'altra macchina. C'è la terza macchina omicida, come per Haider, scrive, l'omicidio di Buonanno. Nel report fotografico notiamo due auto, una delle due è il maggiolino di Buonanno che avrebbe tamponato la vettura a tre volumi. Sull'asfalto si nota una traccia curvilinea lasciata da una terza vettura che pare entrare intenzionalmente sulla corsia di emergenza. Questo terzo autoveicolo non appare nel reportage di Varese News. È altresì strano che non si sia parlato di omicidio stradale e non si stia cercando il pirata della strada. Ma che cazzo ne sai, Parenzo? Che cazzo ne sa del pirata della strada? Io divento pazzo. Ma di questa cosa qui Folle non sa ovviamente niente. Ma c'è una cosa Rosario sulla quale Merdanò sa. Rosario Merdanò, preparatore di merda. Merdanò. Sì. Senti, c'è un precedente, l'assassinio di Haider. Anche lui ha acceso, a parte che non è vero, l'assassino di Haider nessuno l'ha mai provato. Anche lui ha acceso antieuropeista e probabile futuro premier. Cioè, veramente non si è mai parlato di futuro premier per Buonanno, comunque. Mai. Acceso antieuropeista, questo sì, ma cosa vuol dire? Chi aveva interesse, secondo Merdanò, a uccidere Buonanno? Ragazzi, dai, su. Comunque, se hai coraggio, venga a parlare qui, Merdanò. Non Mi segnalano, caro David, poi parliamo di Roma, a me mi rompe mi i coglioni. Mi segnalano qui nell'ufficio dove appena trasmesso Barisoni che arrivano degli sms che nella trasmissione precedente credo vengano censurati. Cioè? Più riforme ancora, più riforme che non servono a un cazzo. Dillo Barisoni, urlalo che le riforme non servono a un cazzo. Gli scrivono, non credo che vengano lette. Andiamo avanti ancora. Barisoni, ma vuoi dirlo che Padoan è un Pinocchio, gli cresce il naso e non solo? Ecco, questi sono alcuni messaggi che ti leggo testuali. Censurati dalla trasmissione precedente. Censurati dalla trasmissione precedente. Quella trasmissione allora, senti questa cosa qui. Senti questa tutto cosa qui. Tutto è molto tranquillo. Senti questa cosa qui. Non c'è solo il caso della rivolta della pasta scotta alla mensa di Via Eritrea a Reggio Emilia. I casi in cui i profughi si lamentano dei pasti che vengono loro generosamente offerti dallo Stato italiano, sono diversi. In questi ultimi giorni si è verificato un caso simile alla mensa del povero in Vescovado, sempre a Reggio Emilia. Pur godendo di un buono per l'acquisto di un pasto, hanno deciso di frequentare anche la mensa del Vescovado. Sai che cosa fanno questi qua? Si presentano, guardano se il cibo è di loro gradimento o meno, poi se non gradiscono buttano via tutto. Vengono qui con l'intenzione di fare confusione e buttare via del cibo assolutamente utilizzabile. Si sono lamentati di panini buonissimi lasciati da un catering. Questa è la situazione, caro David, questa è la situazione. Le parole di Del Debbio su Buonanno. Le parole di Del Debbio su Buonanno, vai. Sentiamo. Gianluca Buonanno è stato uno che in questi casi è sempre intervenuto di tasca propria, aiutando quasi tutte le persone che abbiamo avuto qua. Cioè dice Del Debbio, questa cosa qui non mi ha detto mai di rivelarla, ve la rivelo adesso che è morto. Cioè andava lì in studio e aiutava le persone bisognose che glielo chiedevano. Questo. Sì, questo non toglie nulla, naturalmente se uno ha detto delle cazzate, ha detto delle cazzate, anche appunto, se dava i soldi, certo, per carità. Allora, le Olimpiadi, la questione delle Olimpiadi che è venuta di nuovo, no? Che è emersa oggi. Perché è emersa oggi le Olimpiadi a Roma? Naturalmente io sono contrarissimo alle Olimpiadi a Roma, che darebbero invece il colpo finale alla capitale, proprio il colpo finale. No, il colpo di Reni per riscattarsi. Ma quale colpo di Reni? Invece. Colpo finale, la distruzione di Roma, se vogliamo la distruzione di Roma, le Olimpiadi. Non siamo in grado, dai, su, ma è una città che non è in grado nemmeno di fare bene la raccolta rifiuti, non è in grado di organizzare le Olimpiadi, mi pare chiaro, no? Ma comunque al di là di questo. C'è stata una frase oggi di Francesco Totti che ha fatto dire a qualcuno sicuramente voterà per Giachetti. Di Totti, il governatore della Liguria, dici? No, Totti, con due T. Ah, con due T, d'accordo. Il capitano d'accordo della Roma che ha appena rinnovato il contratto no con la Roma. Ora, Totti non ha detto chiaramente voto Giachetti, ha detto io sono favorevole alle Olimpiadi a Roma. No, qualcuno ha fatto 2+2, siccome l'unico favorevole tra i due sfidanti certo è Giachetti, si può dire ha detto Totti voterà Giachetti. In realtà non l'ha detto. Si può dire, Totti voterà Giachetti. Voterà quelli che sono a favore delle Olimpiadi. Ma non ha detto Giachetti questo, non ha detto questo. Ricordiamo le due cose, va. Raggi, criminale parlare di Olimpiadi. Quindi io ritengo che oggi sia criminale iniziare a parlare di Olimpiadi quando Roma muore quindi il problema affogata si può di traffico, sì, di buche. Quindi il problema non se lo pone adesso. Qui c'è un po' di paraculismo, perché è evidente che poi a un certo punto fra 15 giorni dovrà dire il sindaco di Roma appoggia la candidatura italiana oppure no. Cioè questo lo dovrà dire. Dice prima bisogna risolvere tutti gli altri problemi e poi dire di sì o di no alle Olimpiadi. In realtà se dici è criminale parlare di Olimpiadi è evidente che sei contrario. Giachetti invece ha detto che è criminale non fare le Olimpiadi. Sì, io penso che criminale sia non utilizzare un'opportunità straordinaria come questa. Io voglio rappresentare una classe dirigente che non ha. Allora, Salvini di ieri da noi ha acceso un po' il dibattito. A Roma voto la Raggi e pure l'Appendino a Torino. Sicuramente non voterei mai per un uomo di Renzi. E dunque voti la Raggi? Cioè, voteresti la Raggi? Sì, sì, ma non senza secondi fini. ma questo discorso vale anche per Torino, quindi anche a Torino, anche a Torino, dove avete preso Appendino. Né per Giacchetti né per Fassino, poi ognuno fortunatamente è libero di scegliere a chi dare il suo voto senza aspettare Salvini. Questo è il mio piccolissimo parere personale. Oh, a proposito di Salvini, dice che vorrebbe, non è una cosa nuova, che vorrebbe far fallire gli albergatori, vedere fallire gli albergatori che ospitano i clandestini, cioè che sostanzialmente si procurano i soldi, reddito, guadagnano con i clandestini. Per rispetto di tutti gli altri albergatori, ristoratori e commercianti che si fanno il mazzo, questi finti buoni mi piacerebbe che fallissero dal primo all'ultimo, perché campano sull'immigrazione clandestina. C'è un tizio che si chiama Renato Garibaldi, che gestisce un centro di 30 immigrati non mi ricordo dove. Infatti si chiama Garibaldi, bravo. Vabbè, che cazzo c'entra? Beh, grande patriota questo? Garibaldi. Vabbè, bravo. Questa vabbè, c'entra con l'accoglienza. Omen nomen, bravo. Vabbè, che dice che non lo facciamo per business. È ovvio che Garibaldi risponda alla Lega. Dire pure evidente. Che non lo facciamo per business. Lo fanno perché spesso è un modo, beh, per guadagnare. Non è che fanno un grandissimo profitto, te l'hanno spiegato tutti. Non è che ci fanno un business, un profitto enorme. Non lo fanno per generosità. No, sicuramente guadagneranno due lirette, ma fanno un servizio anche utile. Anzi, io sono di più. Sono perché per chi mette a disposizione questi alberghi deve avere degli sconti pazzeschi dallo Stato. Ad esempio, non dovrebbe più pagare l'IMU. Gli altri? Diciamo così. E gli altri? Beh, chi fa un servizio sociale, ma che servizio deve sociale? Essere questi vogliono agevolato. Guadagnare, perché altrimenti non ci andrebbe nessuno. Allora, appunto. Chi gli albergatori che si mettono a disposizione dello Stato per ospitare migranti devono avere degli incentivi per farlo, quindi degli sconti. Ma quando mai? Ecco. Una persona che non ha cuore, che non ha una vocazione per gli altri, dice, visto che lui non ce l'ha, che chi fa qualcosa per gli altri lo fa per i soldi, non lo fa per il business. È una favola da sfatare questa. Probabilmente qualcuno lo farà anche per altri motivi, però è evidente che c'è un motivo di guadagno, punto. Un motivo di guadagno, di guadagno. Ragazzi, però non abbiamo parlato della Brigliadori, eh? Ieri un po' presi dalla morte di Buonanno e da tutte le cose sulla morte di Buonanno. La Brigliadori, amici miei, la Brigliadori. Sapete che è andata via dal Costanzo Show in polemica con un medico per la questione dell'oncologia. Ha ripetuto sempre le stesse cose, cioè dire, praticamente è guarita da un cancro senza chemio. Certo, io per esempio mi sono curata dal cancro senza chemioterapia. Tutti e sono viva e vegeta a 21 anni dall'89, da lì sono diventata vegetariana. Ma siccome gli interessi sotto fanno sì che questo debba rimanere, questo perché c'è il business, è un'offesa al e allora della la verità, il mondo della ricerca 100 anni fa diceva il contrario. Basta. Dopo anni di fare ricerca. La mia vita non è una stata. La morte di mia madre non è una. Basta. Centinaia di persone sono morte così. Basta. E non sono qui per dire bubole come ho sentito fino adesso. La parola censurata era stronzata. La mia vita non è una stronzata. La signora Brigliadori, Brigliadori, si può guarire dal cancro senza chemio. Sì, coi miracoli, sì, certo, qualche volta succede. Qualche volta succede. Porta che... il cielo alla Madonna di Lourdes. Ci può essere qualche caso, sicuramente. La regola non è così, però. La regola non è così. Tant'è che le morti di cancro sono diminuite, cioè negli ultimi anni. Non sono ancora. Grazie alle terapie tradizionali, diciamo. Altro che il traffico, qua ci serve sapere del traffico di stupefacenti, che non si trova più l'erba buena. L'erba buena. La Zanzara. Allora, per chi non l'avesse sentito ieri, è andata in onda in tarda serata, cioè alla fine di questa trasmissione, un ennesimo mitologico scontro tra David Parenzo e il divino Telma. No, io non il punto ricordo. Fondamentale è che il divino Telma non sapeva eccolo, appunto, lo sfidante di Sala a Milano, cioè Parisi, cioè non sapeva il nome di Parisi. A quel punto Parenzo ha sbroccato. Niente, no, che non sa. al candidato del centrodestra di Milano, sì, l'aspirante di Sala, lui era in realtà sai neanche come si chiama, no. non proprio tanto sicuro, forse come si chiama, come si chiama, detto come si chiama, divino, andrai non lo sa, non lo sa. Come si chiama, non lo sa. Ma non ho la più pallida idea, non mi interessa. Ma come non sai come si chiama? Dai. Non mi interessa come si chiama. Ma è un bravo, prima volta che non sa niente questo! Non ce lo faccio più! Andiamo a fare in culo questo vostro pagliaccio e vi congediamo. Non lo sa! Non sa come si chiama! Non è più possibile sopportarlo! Aspetta! L'udienza è tolta! L'udienza è tolta! Non sa neanche come si chiama! Sono giorni! Accanto! Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora ragazzi, tanto per inquadrare la signora Brigliadori, io la ricordavo, no? Attrice, che cazzo faceva sta Brigliadori anni fa? Beh, cioè, sì, certo, Leonora Brigliadori, ma cioè, che cosa vuoi fare? La showgirl, non so che minchia faceva. Sì, sì, adesso beh, crede in tantissime cose, tra cui per esempio il fatto che il secondo bicchiere d'acqua non va dove è andato il primo. Questo è molto interessante come cosa. State attenti, è il secondo bicchiere d'acqua. Vai. Tutto quello che gli scienziati di oggi, che io rispetto, che studio, perché leggo tutto quello che dicono, vedono nei loro laboratori, quando una sostanza entra nel corpo umano, si comporta in un modo completamente diverso. E quale sostanza? Fammi un esempio. Allora, se io bevo un bicchiere d'acqua, l'acqua, vabbè. Per esempio, bevete il primo bicchiere d'acqua e provate un'esperienza. Se subito dopo ne bevete un altro, quel bicchiere d'acqua non va più dove è andato il primo. Perché? Lo capisci tu o no questa cosa? No, vuoi risolvere niente. L'arcano o no? Vuoi risolvere questo arcano o no del secondo bicchiere d'acqua dove va? Sì, sì, ma non dormo la notte io per questa cosa qui. Da quando ho visto Maurizio Costanzo non dormo più la notte. Tu lo sapevi che era un uomo che sognava di volare, lei? Cioè dice che era un uomo che sognava di volare. Cioè le reincarnazioni o le incarnazioni, non capisco un cazzo quando parla. Veramente bisogna studiare l'antroposofia. Che chi eri in una vita precedente? Ero un uomo ed ero un artista che aveva sognato di volare, tant'è che la mia incarnazione di questo tempo ha scelto un padre che mi ha permesso a 16 anni di essere la più giovane volovelista italiana. Poi ho studiato la meteorologia e adesso sento nel mio corpo eterico le stesse forze che vedo agire nel corpo eterico dell'aria, dell'atmosfera. Ma hai fatto... Che cazzo, insomma, ragazzi, ma veramente, cioè, non ci vogliono tre ambulanze qui. Cioè, la follia è questa, capito? La follia è questa. Poi uno può parlare di chemioterapia, di guarigione, eccetera. Ma il corpo eterico, cos'è? Cosa è? Cosa è? Di cosa stiamo parlando? Di cosa parliamo? Però ci sono notizie anche dal magico mondo di Red Ronnie. Sentite, gli orsi polari hanno il tumore. Gli orsi polari. Questo è pazzesco. Il professor Veronesi mi ha detto che ho fatto bene a eliminare il pesce perché si cominciano ad ammalare di tumore gli orsi bianchi, perché per un fatto di catena alimentare con il mercurio che c'è nel mare sono malati e io sto bene. Gli orsi bianchi ammalati di tumore. Sono problemi questi, Ma c'è dell'altro, senti. Senti, il tempo. C'è del marcio. Il tempo oggi è accelerato dal magnetismo terrestre. Non hai l'impressione che le giornate oggi durino molto poco? Sì. Non hai l'impressione che non c'è tempo per far niente? Sì, sì. Il tempo si sia incredibilmente accelerato? Sì. Allora, è una sensazione, ma è una realtà. Una giornata di 30 anni fa per me era molto più lunga di quella di oggi. Sì, certo. Vuol dire che significa che il magnetismo terrestre ha accelerato, cioè il tempo è tutto relativo. Questi non è solo fantascienza, sono le relatività del tempo. Allora, cosa succede? Succede che il tempo si è notevolmente accelerato. Oggi tutto va molto più in fretta. I nostri 70 anni sono molto più lunghi dei 40 anni dei nostri nonni. Quindi è proprio un fatto, ma non è una sensazione, è un fatto, mi dicono esperti, magnetico questo qui. Quante cose che si apprendono, caro David, quante cose. I nostri 70 anni sono, com'è, più corti o più veloci? Sono più veloci di quegli altri. Veloci, sì. Le capito? Giornate durano meno. Con l'altra che diceva, eh sì, certo. Ma sì, certo, no, un cazzo. Cosa sì, certo. L'altra, credo che la Celentano, non so che cazzo. L'ottima, è. L'ottima Celentano, certo. Dai, bravissima su, Celentano. Ma dai, no, dai. Bravissima. Benedetto però, Padova, stai zitto un attimo. Benedetto punto Padova, di vista del cane, è importante, ha ragione anche lei. Com'è che faccio a lanciare una scommessa con gli ascoltatori della Zanzara? Sì, basta che togli questa. Viva voce o la, o... Oggi ho spento la radio e ho il telefonino all'orecchio, quindi non ho il viva vai, voce. Vai, dimmi. Ecco, volevo lanciare una proposta agli ascoltatori di La Zanzara, sì. una scommessa, e sarebbe questa, sì. Che fra poco tempo Parenzo comincerà a leccare il culo al Movimento 5 Stelle. A casa sua tutto bene? Benissimo. A casa sua tutto bene, cioè. Ma perché, sì, perché dici questo? No, non cambierà, semplicemente perché opinione, ho detto che semplicemente perché anche Lecchini cambiano opinione. Semplicemente dopo... Lecchino è lei e tutti gli amici suoi che le stanno intorno. Semplicemente io ho fatto una valutazione che ha fatto chiunque, credo, dicendo che il Movimento 5 Stelle a queste elezioni ha avuto un buon risultato. No, vabbè, questo lo dicono questo, tutti. Benedetto, non ho capito che cosa sia, perché dovrebbe leccare il culo al Movimento 5 Stelle adesso? Perché un Lecchino cambia opinione solamente dopo aver cambiato culo, però no. Prima cambia culo e dopo guardi, cambia anche opinione. Che lei, sul fatto che lei sia un idiota, non ho mai cambiato opinione. Da quando ha telefonato, subito ho capito che non avrei cambiato opinione. Confermo. Fermi. Lei è un idiota e lo confermerò nel corso della diretta, caro. Fermi. Benedetto da Padova. Cruciani, farlo a pezzi e darlo ai cani. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar, ce l'ha con te questo? Ma no, ce l'ha con no, te, no, ce Alessandro, l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24. C'è Attenti a Noi Due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. La verità, Cruciani, è che tu non sei capace di un rapporto duraturo. Io sono 11 anni che sto con mia moglie e sono felice di essere unicamente di sua proprietà. Mi dispiace se dici il contrario, vuol dire che c'hai paura. In realtà a me l'idea di essere proprietà di qualcuno, come dice questo ascoltatore, proprietà di qualcuno mi fa orrore. Beh, proprietà. Tu ti senti proprietà di Natania in realtà. Ti senti no, proprietà, no, proprietà. No, la proprietà si usa per le cose, sì, per sì, gli proprietà. Oggetti. No, no, per gli affetti non ci sono proprietà degli affetti. Mi sento, spero di essere nel suo cuore sempre, questo certamente, va bene. Ma che banalità è? Ti senti proprietà o no? No. Ma proprietà è un termine dunque, che non ha alcun senso. Delle cose, uno è proprietario di una cosa, esatto. Di un oggetto, il non di una persona. Il senso di proprietà è quello che porta poi agli omicidi, sbagliato. È quello che poi può portare agli omicidi, non è che tutti quanti... Diversa è la fedeltà. Quella è un'altra cosa invece, però. Tu credi nella fedeltà, Spero, mi auguro. No, tu credi nella fedeltà, cioè tu credi nella fedeltà. Ma credo, non lo so, non mi piacerebbe essere cornuto, ecco, no, non d'accordo. Mi divertirebbe tornare a quello che invece piace a te, ma io ogni ormai tanto ho qualche, imparato qualche, a rispettare dire, questa roba. Le corna, le corna, ti sentiresti in colpa a mettere le corna? Ma sì, moltissimo. Ma no, a parte che appunto sì, mi sentirei moltissimo in colpa, ma oltre a questo, è come metterle, ma così come riceverle, cioè proverei dolore, dolore. Sì, vabbè, perché sei attaccata a questa cosa del fisico, tu, a questa cosa della fisicità del rapporto. rapporto. Cioè il rapporto è anche fisico, dunque c'è l'esclusività del corpo, no? L'esclusività, insomma, se tu decidi di stare con... Sentimi un attimo, se a te piace tornare a casa e diciamo che proponi addirittura un modello fin dall'inizio in cui torni a casa, dici, torna a casa dopo la zanzara, apri la porta e trovi la tua simpatica compagna montata da due individui, magari compreso anche il tuo cingalese che fa le pulizie a casa, se ti piace una situazione... Potrebbe essere una variante quella. Ecco, io la posso io la rispetto, non è che la disprezzo, la rispetto. Non vorrei che capitasse a me. Si può ancora dire questo o no? Guarda come è scesa la mia asticella. Guarda come è scesa, no? Ormai è scesa. Una volta l'avrei disprezzata. Ora la rispetto, ma non mi piacerebbe mi capitasse. Ecco. Allora ragazzi, Berlusconi oggi è stato ricoverato, Sì, poveretto, è stato ricoverato per uno scompenso cardiaco, eccetera. Al telegiornale nostro hanno appena detto un'altra cosa, che invece comunque tutta la cerchia dei suoi dice no, erano controlli previsti, quindi tutto a posto, hanno dato la notizia. In ospedale per controlli al cuore. Controlli di routine. Vabbè, non è che l'istituto luce questo qua, cioè oggi è uscita fuori la notizia che è stato ricoverato per alcuni problemi cardiaci, punto e basta. Sì, però i suoi dicono controlli di routine. Gli auguriamo una vita lunghissima ancora, Ma certo. Allora, prima delle elezioni, dei giorni delle elezioni, si è presentato al seggio a Roma e sembrava veramente quasi impazzito Berlusconi, perché a un certo punto a un tizio che era vestito un po' strano, coperto, c'era molto caldo a Roma, aveva il cappello, la cravatta, eccetera, eccetera, gli occhiali, eccetera. Senti che cosa ha detto. Facciamo una foto, presidente, prima di entrare al seggio, con i ragazzi. Sei completo, cappello, occhiali. Esatto. Hai messo anche il preservativo. E risate intorno. Sei proprio completo, cappello, occhiali. Ti sei messo anche il preservativo? Questo mi ricorda la battuta, perché è una battuta questa qua. Mi ricorda la battuta che ogni tanto faccia qualcuno quando indossa delle scarpe un po' femminili, no? Dei mocassini all'abbriatore o cose del genere. Mi avvicino e succede anche qua con un collega del Sole 24 Ore, uno dell'ultimo piano che fa il grafico, no? Gli dico, scusa, ma che belle queste scarpe che hai, le fanno anche da uomo? Poi a un certo punto ha fatto anche il gesto. Puoi anche dirgli, bella questa giacca che hai, me la presti che devo fare una figura di merda? Puoi usare anche questo, definitivamente puoi anche usare questa. C'è anche il gesto del ricchione ha fatto a un certo punto Berlusconi, perché ha detto, tra l'altro, ha detto che pensate che invece di andare a donne ho trascorso 3 pomeriggi alla settimana con i miei avvocati. Non vorrei che qualcuno pensasse si tocca l'orecchio, no? Si tocca l'orecchio, sai come si faceva una volta, no? Sì, certo, cioè, con il dito numero uno. Con l'indice. E poi l'hanno ricoverato per problema al cuore, vabbè. Davide da Torino, vai Davide. Pronto? Dimmi. Allora, ciao David, innanzitutto shalom. Shalom a te. Sti cazzi adesso, shalom. Dai, shalom a te. Allora, shalom volevo dire, David, cioè, mica siamo in sinagoga qui. No, mi dice shalom, gli rispondo shalom. Bene, a te. Dai, forza. Si sente in colpa solo la prima volta che si tradisce a 20 anni, poi basta, cioè voglio dire. Non è strano, voglio dire. Va bene. Sarà capitato, David. Ma sicuramente va bene, ma non dico questo. Vabbè, andiamo io. Avanti, dai, forza. Bene, dimmi. Dunque, no, che l'altra volta si lamentava che non chiamava analisti finanziari. Io sono un neoanalista finanziario, faccio analisi tecnica. Sì. Eppure con i miei colleghi ogni tanto si è andato a puttane. E allora? Va bene, benissimo, anche questo è altro. Analista finanziario che va a prostitute e ha sentito il bisogno di comunicarcelo. Dunque, non ho capito, cioè, che cosa vuoi dire con questa cosa? Vai a puttane insieme ai tuoi amici, ai tuoi colleghi analisti finanziari. Ma è come andare, ma no, ma non è che regolarmente si va tutti i giorni, però, non so, a Londra è abbastanza diffusa questa pratica adesso. E dunque, cosa vuoi dire? Non ho capito. No, non ho niente da dire. Non hai niente da dire, la realtà è che non è un cazzo da dire. E perché chiami se non è un cazzo da dire? Scusa. No, guarda, è fantastico, veramente. Ma perché chiami se non hai niente da dire? Spiegami. Ho iniziato ad ascoltarvi che facevo seconda liceo. Sì. Quindi immaginate, mi sono laureato. No, ma noi siamo molto contenti di questa cosa qua. Siamo molto contenti di questa cosa qua. Non capisco perché tu chiami se non hai una minchia da dire. Dunque. Adesso ti è venuta in mente una cosa, dai. Il signore iraniano dell'altra volta. Sì. Quale? Quello non era iraniano. Ma quale? Ma qui passa un sacco di gente, passa una marea di gente. Ma questa è come la stazione di Roma Termini, cioè, passa chiunque. Io ti abbraccio fortissimo, ti ringrazio che ci segui da un sacco di anni. No, non ti mando a fare in culo perché non c'è mai caso di mandarti a fare. Possiamo anche farlo. Se vuoi lo facciamo, così se la cosa ti fa godere stasera, Davide, vai a fare in culo, ciao. Allora, ragazzi, Zanzarolo Givari, vi voglio dare un numero di telefono perché dovete tempestare questo numero di telefono di chiamate, registrarle e poi mandarcele. Allora, c'è un sindaco ad Acerra che si chiama Raffaele Lettieri, che è come il candidato a Napoli del centrodestra, che è arrivato al ballottaggio con De Magistris, ma non c'entra niente, Raffaele Lettieri, il quale qualche giorno fa sul suo profilo Facebook ha scritto: fioccano le multe da parte dei vigili urbani di Acerra. Questo è un amico di Parenzo, eh? Fioccano le multe da parte dei vigili urbani di Acerra a persone che sul nostro territorio cittadino sostavano o si fermavano per concordare con le prostitute prestazioni sessuali in virtù dell'ordinanza sindacale numero 9 contro il fenomeno della prostituzione. Ottimo. Non contento del fatto che, secondo lui, fioccano le multe da parte dei vigili urbani a signori che vanno a prostitute, mette anche le foto di verbali, ovviamente omettendo i nomi, sul suo profilo Facebook. Una cosa di uno squallore inaudito. Allora, io vi do il numero della segreteria di questo sindaco, perché Raffaele Lettieri. Per fargli i complimenti. No, amici miei. Chiamatelo. Puttanieri di tutta Italia, persone libere, uomini o donne, persone libere, miserabili, puttanieri affini, chiamatevi e incazzatevi. Abbiamo il diritto di andare a puttane. Caro sindaco Lettieri, non ci rompere le balle, non ci rompere i coglioni, abbiamo tutto il diritto di andare a puttane. Segreteria del sindaco Lettieri, 081, mi raccomando, è 081 52 19 210. 081 52 19 210. Segreteria del sindaco. Chiamate persone libere che siete in Italia, persone libere della Campania, persone libere di Acerra, puttanieri e affini, ma semplicemente uomini, donne libere. Chiamate contro il censore, chiamate contro il novello Khomeini, chiamate contro il nuovo oscurantismo, chiamate. Ma quale oscurantismo? Registrate le telefonate, mandatele a quel paese, ditegli: io sono un uomo libero e ho deciso di andare a puttane, non mi devi rompere le palle. Io sono un uomo libero, virgola, un miserabile, no, e vado un a uomo libero, sfruttando anche una donna, il corpo magari delle donne. Ma smettila, dai, basta. Alessandro, provincia di Bergamo, vai. Ecco. Dimmi. Sono io. Alessandro, non cominciamo stasera, su, dai. Allora, se no mi innervosisco stasera. Non me lo devo fare subito. Dimmi. Quello dei vegani. Come? Vorrei conoscere uno, sì, che fa lavori pesanti. Ah, tra i vegani. Italiano. Sì, Alessandro. Ecco. No, è tutto il mondo. Alessandro, che cosa ti sei fatto prima di chiamare? Assolutamente niente. Io non mi faccio niente. Non ti fai assolutamente niente. Assolutamente. Tu dici non conosci un vegano che fa lavori pesanti, questo vuoi dire? Ascolta, c'è uno vegano. Ma sai parlare o no? Cioè, sai parlare, sai articolare un minimo. Uno che fa lavori pesanti, un vegano che fa lavori pesanti. Non l'hai conosciuto, cioè non conosci sostanzialmente un operaio. Non l'ho conosciuto. Io ho 26 anni di come si chiama di contributi, sì. Non ho mai conosciuto uno. No, questo è un ragionamento interessante. Alessandro, tu che lavoro fai? Ho fatto in miniera. Miniera, sì. L'ultimi 12 anni ho fatto metalmeccanica. Sì. Sempre lavori pesanti. Non hai mai conosciuto un vegano. Questo è interessante perché in realtà assolutamente no. Io non ho mai conosciuto un vegano. L'abbiamo capito. Ecco, se lo abbia ripetuto più volte. Lavori pesanti perché c'è. Cioè, scusami un attimo. Ecco, è quello che ti voglio dire. Cioè, scusi un attimo. Sì. Se te mangi la verdura e quelle cose lì, che scusi un attimo, ma scusa un attimo. Come fai a tirare avanti? Io non l'ho capito. Tu mangi carne a iosa, volontà, che mangi? Sì, cioè, vado qua, io non faccio pubblicità, però... No, non devi fare pubblicità. Come si chiama? Carne mista, quelle cose lì. Ma è italiano? Sì, è italiano, la no, provincia di Bergamo. Assolutamente, no. Di dove sei, scusami? però non prendere in giro, eh? No, chi prende in giro? Perché sennò vengo giù a Milano, perché io a Milano ho vissuto 4 anni. No, per carità. Sì, ma da dove è originario lei? No, assolutamente no. Di dove sei? Allora, io sono bulgaro, ho 2 giorni a Giacomo, bulgari. Vabbè, Alessandro, ciao. Cos'è? Ma che ne so, ciao. Aia David, picchia forte! Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta La Zanzara. Parenzo parla di come dovrebbe essere il mondo. Cruciani parla di come è il mondo. Allora, caro David, c'è una notizia che viene da Platì, che ha un sindaco dopo non so quanti anni di commissari, eccetera, eccetera, credo 10, 12, 10 anni, 13, 10 14 anni. Platì, Calabria. Il problema è una città, come dire, per anni, forse anche adesso, preda della 'ndrangheta. Esatto. È praticamente la capitale del narcotraffico internazionale, considerata la culla dell'andrangheta, Platì. Cioè, tu vivresti a Platì, diciamo la verità. Vivresti a Platì. Ma non ho motivo per vivere a Platì. No, ma in generale, momento. Vivresti a Platì, no. Beh, cioè, come dire. Come li consideri quelli che vivono a Platì? Fortunati o sfortunati? No, non sono mai stato a Platì. No, ma come li consideri quelli che vivono a Platì? Fortunati non so, o come sfortunati? Si in tutta la provincia italiana. Non è la stessa cosa, dai. Comunque, è stato eletto un sindaco che si chiama Rosario Sergi, 63% dei voti. Però, secondo la commissione parlamentare antimafia. Tu vivresti mai a Platì? No. Secondo la commissione parlamentare antimafia, avrebbe rapporti con alcune cosche. Però adesso non ci interessa questa cosa qua. Vogliamo capire. Un dettaglio. Vogliamo capire se gli abitanti di Platì conoscono il significato della parola 'ndrangheta. Beh, certo, cioè, e se sanno che cos'è la 'ndrangheta. Secondo te lo sanno o no? Ma certo, sarebbe come se in Veneto dicessi, scusate, come il Veneto, sapete Venezia? Beh sì, c'è in Veneto, certo. C'è una cosa che loro credo vedono. Facciamo dei numeri a caso, dai. Facciamo dei numeri a caso a Platì. Iniziamo, che ne so, da una famiglia che si chiama, non so, o Sergi, oppure si chiama, che ne so, boh, non mi ricordo, è uguale. Fatemi un numero, ragazzi, prendetemi l'elenco di Platì, Prendetemi l'elenco di Platì, vai. Sentiamo qui. Sì, buonasera, sondaggi, buonasera. Buonasera. Secondo lei esiste la 'ndrangheta? Faccio che decete voi, io non capisco manco che decete. La 'ndrangheta, sa che... questa cosa non la faccio, sogno una vecchia non la faccio. Ma lo sa che cos'è la 'ndrangheta? No, non faccio. Non lo sa che cos'è la 'ndrangheta? No. Non sa niente lei, niente? No, non faccio niente, figlio, non faccio niente. Niente, ma nemmeno che cos'è la 'ndrangheta? Ma non faccio. La malavita organizzata. Mi giuro che non faccio. Ma possibile mai la 'ndrangheta? Ripeta con me. Non faccio. No, ma la parola 'ndrangheta. No, non faccio, Rico. Ma è importante dirlo, la 'ndrangheta fa schifo, signora. Non faccio niente, in caso che decido voi. Ma la 'ndrangheta, è possibile che non la conosce? Platì, No, non capisco niente di queste cose, non capisco, sogno una vecchia, non capisco signora. Niente. Allora, il primo tentativo mi sembra che è andato a male, non è riuscito moltissimo, ma non sa niente. Però è normale, questa è una vecchia, no? Cioè, ne facciamo un secondo, che dici? Questa è una vecchia, una signora. Vabbè, anziana. Una signora, una vecchia, un'anziana. Sì, ho detto una vecchia del merda. Nonostante sia anziana, non conosca. Appunto. Perché insomma, però, lì è da tanti anni che c'è questo fenomeno. Io ne farei un altro di tentativo. Vediamo. Un altro tentativo. Come si chiama questa qua? Quest'altro, facciamo questa da famiglia, eccetera. Come si chiama? Ragazzi, prendete questo elenco. Romeo. Proviamo, dai, vediamo. Mi raccomando, speriamo risponda qualcuno. Pronto. Buonasera, Isuluo Sondaggi, salve, buonasera. Buonasera. Secondo lei esiste la 'ndrangheta? Pronto? Pronto? Pronto? Ha buttato giù, dici, questo qua? Mi pare di sì, proprio non ha gradito la domanda. Però andiamo forse. Avanti, andiamo avanti, dai, qualcosa otterremo da questo mini sondaggio a platì, dai. Pronto? Sì, buonasera, qui Istituto Sondaggi, salve. Salve. Salve, buonasera. Sa che cos'è la 'ndrangheta? Ah, c'è 'ndrangheta, sogno vecchio. Ho capito, ma sa che cos'è la 'ndrangheta? No. Non lo sa, ma esiste la 'ndrangheta a platì? Non lo so io. Ma come non lo sa? Appunto come? Perché è vecchio. La 'ndrangheta. Cosa significa 'ndrangheta? Ma non lo so che cosa significa, sogno anziano. Ma ho capito, ma la parola 'ndrangheta la conoscerà? Ma non lo so, te dico. Vabbè, ma risponda la parola 'ndrangheta, la pronunci? Non lo so. Vabbè, ho capito, ma esiste la 'ndrangheta o no? Non lo so queste cose, te saluto. Ma la parola 'ndrangheta la conosce lei? Ma sono tutti anziani a sto cazzo di platino, non ho capito? Ci sarà uno normale, cioè una persona normale, 40 anni, 45, 50. Effettivamente è strano. Ma hanno una voce triste, tutti hanno una voce triste. Non lo so, una cosa incredibile. Cioè, poi rispondessero, sì, so cos'è l'andrangheta e fa schifo l'andrangheta. No, non lo saccio, non lo saccio queste cose. Facciamo un altro tentativo, che dici? Prova. Facciamo un altro o no? Sì, sì, proviamo, certo. Pronto? Sì, buonasera, Istituto Sondaggi. No, so che San Gianni. Vabbè, stiamo facendo un'indagine. Lei sa che cos'è la parola 'ndrangheta? Non lo so, te dico. Io sono 80-90 anni, che ne sa queste cose? Sì, ma la parola 'ndrangheta la conosce? Ma non lo so, perché non sa queste cose che dice tu. Ma la parola 'ndrangheta sa che cos'è? Non lo so. Non lo sa. Io voglio trovare uno che mi dice sì. Uno, adesso mi metto di punta. Adesso mi metto di punta, di punta. Ancora, ancora, avanti, avanti, avanti Savoia. Pronto? Sì, buonasera, Istituto Sondaggi, salve. Chi siete voi? Istituto Sondaggi, buonasera, stiamo facendo un'indagine su Platì. E su Platì a che cosa volete a me? Sì, buonasera, volevo sapere il significato della parola 'ndrangheta. Io non capisco di queste cose e lasciate gente in pace. Minchia, questa si è incazzata. Si arrabbia la propria. Io non capisco puttana, queste cose. Gente suscettibile lì, Renzo da Forlì, vai. Sì, buonasera. Dimmi, dimmi. Volevo raccontare la mia esperienza, quello che mi è successo riguarda un tumore. Sì. È stato operato nel 2014 per Natale, un tumore al cervello. Sì. L'operazione è andata benissimo, un'operazione difficile. Sì. Allora, solo che è un tumore, uno dei peggiori, un glioblastoma allora? Di 4 grado. Ho fatto chemioterapia, radioterapia fino a... da gennaio, sì, questa non è, come si chiama là, la trasmissione con Luciano Onder, le trasmissioni grande che cosa vuoi dire, scusa, cosa vuoi dire? Quello che mi è successo, ecco, dopodiché, dato che non funzionava chemioterapia e radioterapia, mi sono affidato a un naturopata che mi ha stravolto l'alimentazione, dato allora? Integratori tanti da prendere, praticamente, e sei guarito? Non sono guarito, il tumore si è fermato, ha smesso di riespandersi. Sì, amico mio, io non credo che sia stato merito del naturopato, del cambio di alimentazione, però non ti posso dire niente perché non sono un medico, per cui non ti so dire. Tu sei convinto che da quando hai iniziato questa cura, diciamo, in che cosa consiste questa cura? Integratori a base di estratti di funghi, aloe e altri integratori, che sarebbe un lungo elenco, che tra l'altro mi costano piuttosto cari perché devo pagare di tasca mia. Però, insomma, alla fine, se quello che conta è il risultato, sì, io sono contento. Sì, ma ho capito, ma che integratori sono? Che cos'è? Estratti di funghi, di reishi, di ganoderma, quindi... E cioè tu hai capito, ma devi fare medicina ancora... cinese. Sì, medicina cinese, va bene. Ma tu devi ancora fare la chemioterapia? Ti hanno prescritto altre? No, adesso l'ho interrotta da settembre. Ah, l'hai interrotta perché? Chi ti ha consigliato? Quale guru ti ha consigliato? Nessuno, mi sono... l'ho fatto io di mia spontanea volontà. Amico mio, io che ti devo dire? Cioè, tantissimi auguri. Ma dovevi fare altri cicli? No, mi avevano proposto di farmi operare di nuovo. Perché dicevano, secondo me... E tu invece vuoi fare solamente questa cura, diciamo, naturale? Per il momento, sì, dato che funziona. Ovviamente, se non avesse funzionato, ritornato alla chemioterapia, fare altri tentativi. Tra l'altro, dove mi curavano avevano un solo prodotto, per cui eventualmente sarei andato da un'altra parte, un altro ospedale, a cercare un prodotto diverso. Vabbè, ciao Renzo, ciao. Oh, con grande fatica, dopo diversi giorni in macchina, naturalmente, perché in giro per l'Italia, Vittorio Sgarbi! Eccoci, ecco. Vittorio, come andiamo? Beh, dal punto di vista dell'attualità, oltre alle cose che ho detto ieri a Piazza Pulita, posso aggiungere a voi che sono contemporaneamente triassessore. Come? Triassessore? Dove? Sì, perché forse voi l'avete studiato bene, a parte il futuro che poi lo spiego un'altra volta, ma la legge Bassanini ha stabilito l'incompatibilità, che c'era forse anche prima, fra sindaco e sindaco, puoi fare il sindaco di due città, neanche il consigliere di una città e il sindaco di un'altra, però puoi fare l'assessore. Io l'ho già fatto, il sindaco di una città e l'assessore di 8.000 comuni. Perché quando tu diventi assessore ti devi diventare. Scusa, però, amico mio, come puoi fare l'assessore in contemporanea? Adesso mi sembra che sei assessore a Cosenza, no? No, sono assessore a Urbino. A Urbino, sì, d'accordo. Poi divento assessore a Cosenza per il centro storico e per la cultura, e divento assessore ad Amelia. Amelia, vicino Terni, sì, vicino Terni. Vicino Terni, perfetto. Ma non ho capito, come cazzo fai però a dividerti? Già tu sei il giri l'Italia, in più assessore in tre città, ma devi essere uno e tre. Solo il suo nome, già questo è una cosa che attira capitale, capito? Come si fa a risparmiare sulle spese? Come si fa? Facendo una mostra in tre luoghi. La stessa mostra tu la fai come uno spettacolo teatrale, cioè tu porti in tre luoghi la produzione di Ligabue, mettiamo, o di un qualche artista, prendi una cosa e la distribuisci. Però, se tutti facessero così, avremmo un cantante, una qualunque cosa. Ho capito, ma tu non ti puoi occupare, deleghi totalmente alla cosa quotidiana, diciamo, l'amministrazione quotidiana. Fratelli, un assessore alla cultura a pochissimo denaro, sai quanto fondi ho avuto a Urbino in cui qualcuno mi rimprovera di non aver fatto abbastanza? Quante delibere ho firmate? Quante? Zero delibere. Ho avuto zero fondi e ho fatto. Ma prendi l'indennità? Pericoli. Ma prendi l'indennità in tutte e tre? No, anche l'indennità per una ragione molto semplice. E quell'indennità che dovevo prendere, che è di 800 euro, la prende direttamente Caselli. Va lì e prende la parte sua. Come Caselli? Sì, Caselli, siccome ha fatto mille querele per le cose giuste che ho detto rispetto alla sua attività giudiziaria, in cui ha speso milioni di euro per il processo Andreotti, che ha perduto e che era un processo inutile, ha speso soldi nostri, però devo dargli dei soldi perché io ho detto delle cose che turbavano la sua sensibilità. Ecco, meglio non ripeterle forse. No, però infatti non le voglio ripetere, ma per dire, questa gente che butta i soldi che noi paghiamo di tasse per fare, non dico lui, ma inchieste che finiscono come l'inchiesta Rubi, spende soldi nostri. E io da voi ho detto per primo che l'inchiesta Rubi era una merda umana. Sì. Guarda cos'è costata! Merda umana. Cos'è costata? Ma non ho capito, e dunque stai dicendo? Dunque, voglio dire che ti prendono i soldi, ti prendono direttamente i soldi dalla sì, no, questo riguarda Urbino. Comunque, ad Amelio, ovunque sia, per quanto lo stipendio di un assessore sia inesistente, non potrò prendere nulla, ma potrò fare molte cose. Nel senso che porto una sera la Zanzara ad Amelia. Da questo rende questo la è buono, più allegra. Stupendo. E così via. Cioè, lavorare su tre città vuol dire fare una rete. Un assessore non fa niente. Chi era l'assessore Urbino prima di me? Chi era l'assessore alla cultura di Roma, non si sa, al tempo di Marino? Ecco, dimmi cosa hanno fatto. No, ma vabbè, ma io, figurati. Cioè, Vittorio, voglio fare di più. Mi candido in memoria sindaco di Varallo. Ah, questo è buono, questo è buono. Andiamo insieme tutti voi due assessori. Questo è buono, Varallo è un luogo bellissimo, deve essere onorato un grande sindaco, e sul piano politico può aver detto delle cose discutibili, perché è vero che l'Italia è divisa in due. Uno che nasce a Reggio o a Platì nasce in un'Italia minore, un'Italia in cui è costretto a patire la violenza di una 'ndrangheta che soltanto gli offre delle cose. Uno che è nato invece a Prato, o che è nato a Scandiano, o che è nato a Reggio Emilia, questi problemi non ce li ha. Allora, amministrare da Roma in su è possibile. Da Roma però questa, la cosa interessante invece è questa, mi sembra molto molto bella questa cosa. Cioè, Sgarbi si candida a sindaco di Borgo Sese. Per una cosa, perché bisogna dire a quelli che sono felici della sua morte, che è stato un meraviglioso amministratore e ha amministrato l'Italia. Amministrare, quelli che lo mandano a fare in culo, vadano ad amministrare a Platì quelle facce di merda, provino con la loro faccia a rendere umani quei luoghi, teste di cazzo. Allora ci sono sono morti, lui non è morto, lui è vivo. Allora ci sono un consigliere di Cinisello Balsamo di Selle che ha detto chi di Pedemontana quello è una merda umana, inutile, uno stronzo, provi a governare lui è il suo Selle del cazzo. Allora un altro che è un giornalista di Radio Popolare che si chiama Massimo Albani, no? Massimo, uno saputo che si chiama Neo Merda. Alberti, Massimo Alberti, senti, vabbè, questo... di Radio Popolare, che ha detto: un fascio razzista di meno sono solo felice. Un fascio razzista di meno sono solo felice, capito? Condiviso. Ma cos'è? Lui è uno legato a Stalin e a tutti gli assassini comunisti di cui deve vergognarsi. Altro che fascio, merda umana, imbecille, Radio Popolare del cazzo. Cioè, vabbè, va rispettato un uomo, vai nei suoi paesi, anche il povero il nostro amico ormai Parenzo lo trattava un po' così. Sì. Andate a vedere che aveva governato tre città, Serravalle, Sesia. No, ma certo, ma io avevo uno scontro. Lui ha governato come un re illuminato. E ogni volta che doveva fare una cosa mi chiamava per una pietra. No, ma è vero, questo è vero. No, ma io non l'ho mai scontato. Ha governato, non era possibile governare. Di nessuno, chiaro, se avessi mandato a Lampedusa, avrebbe detto delle stupidaggini sul piano ideologico, perché l'Italia non può essere divisa. Ma la verità è che l'Italia è due, non è una. Sì. C'è un'Italia da Roma in su che è governabile e da Roma in giù che è ingovernabile. Allora, però c'è anche Michele Boldrin, te lo ricordi quello che stava con Giannino, Michele Boldrin, eccetera, il professore? Sì, vabbè, poverino, quello è che ha detto che sì, è vivo, per fortuna, ha detto che Buonanno è un fascista, razzista, istigatore di violenza. Così ha detto, ti giuro, fascista, razzista. So, ma tutto questo da parte della parte roba incredibile, cioè, ma no, pittoresca, anche... ma è gente assurda. No, ma è la pittoresca, la pistola, cioè, lui ha usato dello sgarbismo di provocazione, diciamo, per essere estrema. Visibile. Poi lo è stato in parte, ha esagerato una volta, dicevo io stesso. Ciao. Però dove ha amministrato? Non solo ha preso l'80% bulgaro, come si dice oggi, che non vuol dire nulla perché in Bulgaria c'è la democrazia, vuol dire però un consenso come ai tempi in cui i comunisti, perché si dice bulgaro? Perché i comunisti erano senza democrazia. E questo quindi si riserva balsamo. Vada a vedere come ha vissuto la gente sotto il comunismo. Invece di rompere il cazzo col fascio del cazzo. Ora, il povero Boldrin è un morto che cammina. È un ragazzo che ha fatto delle cose, è stato con quell'altro onestissimo... pelato, come si chiama, Oscar Giannino, Giannini. E visto quello che gli è capitato. Quindi Oscar Giannino, voglio dire, è una brava persona, ma non esiste una cosa fisica, concreta, le piazze che ha fatto, il movimento politico. Adesso Giannino non ha detto niente su Buonanno. No, ma Giannino non c'è da niente. Dire che lui ha fatto un partito con Giannino, che è il partito di quelli che parlano. Sì. Ora, quelli che parlano, parlano come l'altro parlava anche lui, diceva cose diverse, ma oltre a parlare, faceva. Sì, ma le opinioni sempre personali, però. Allora, le opinioni. Ti chiedo una cosa, perché tu farei l'assessore a Cosenza? Mi sembra interessante questa proposta che ho letto da qualche parte, portare i bronzi di Riace da Reggio a Cosenza. Sì. Questo sarebbe straordinario. Quella è una provocazione reale, visto che vanno attribuite altre. Siccome i bronzi sono della Calabria, non sono solo di Reggio, buongiorno, sono anche di Cosenza, che è una città più educata. Ma in realtà sono culturale. Di tutto il mondo, sono di tutto il mondo. E poi in subordine sono di tutto il mondo. Ma nessuno sa che hanno avuto la sfiga di arrivare a Riace, perché sono in realtà non della Magna Grecia, ma della Grecia, vengono probabilmente da Atene. Dovrebbero tornare in Grecia, dovrebbero stare a Roma, dovrebbero tranquillamente girare. Vero, girare. Sì, girare, anche non troppo, però non si può inventare la bugia ipocrita che sono fragili. Fragile mia madre che è morta, purtroppo, fragile Bonanno che è morto, fragili non sono i bronzi che hanno fatto 2000 anni sott'acqua, sono dei delinquenti che raccontano bugie inventando una fragilità che non c'è. Sì, sono poi falsari, li vogliono tenere a Reggio Calabria, dove non credo che facciano grandi affari con questi bronzi. Quando abbiamo fatto 22 milioni all'Expo, ovvero li volevo, lì hanno fatto 40.000 visitatori. No, ma l'aneato dunque è portarli a Cosenza, questo è interessante. A Cosenza è proprio per dire in Calabria, li volete in Calabria, almeno portateli a Cosenza, che è una città che ha una sua ariosità, ha un ottimo sindaco che ha fatto un ottimo risultato, che ama l'arte, che fa cose per l'arte, potrebbe da lì partire, facendo una mostra, per esempio, dai bronzi di Riace a Boccioni, che è nato a Reggio Calabria, mettendo le sculture di Boccioni, che sono in bronzo, in bronzo, a confronto di fare mille cose. Ma basta fare l'assessore alla cultura, vuol dire avere 10 idee all'anno, fai la rivoluzione. Senti una cosa, io volevo chiedergli una cosa sul sindaco di Londra, però, Sadiq Khan. Ma che ce ne viene frega il sindaco di Londra? No, gli interessa perché lo ha invitato a Padova lui, da Bitcoin. Invito anche te, così poi insultare. Sì, certo, andiamo. Ma chi se ne frega? No, ti voglio chiedere una cosa. A Roma chi voteresti? Tu voti a... No, a Roma ho già detto, ti do i miei risultati così poi li facciamo. Dimmi. Ti voglio con la Berlinguer. Allora, Torino vince 5 Stelle. Sì, pure secondo me. Bologna vince, l'unico paese, è un vero paese, diceva ieri sera ironizzando, abbiamo vinto in 1000 comuni, sì, ma sono 1000 paesi. La città, cioè il voto d'opinione, questa volta c'è, ed è su città che vanno da Torino a Napoli. Sì. Napoli perde, vince Levadiste. Sì. Roma vince la Raggi. Sì. A Bologna vince lui, ma vince Merola, perché è un paesone, Merola. Se vince Renzi. A Trieste vince e stravince il centrodestra unito, come a Milano dove vince Parisi. finito. Ah, Parisi vince. Ah, Parisi, allora, ma è vero o no che i 5 Stelle ti hanno detto, ce l'avevi già detto a noi, che i 5 Stelle ti hanno detto, alcuni esponenti dei 5 Stelle, che tu che voteranno per Parisi a Milano? Io ho parlato con Di Battista e mi ha rilevato, dato che io l'avevo già detto prima, confermandolo, che loro votano contro il PD. Cosa vuol dire votare contro il PD? Cioè a Milano ti hanno detto, a Milano voteranno per Parisi. A Milano, dovunque, in qualunque collegio votano contro il PD. Che poi votino Parisi mi pare automatico, ma non voglio forzarli alla mia interpretazione. Contro il PD vuol dire votare per Parisi. Mm. Contro il PD votate di Piazza Trieste. Mm. Contro il PD vuol dire mettere fritto Fassino, che sarà per loro il massimo divertimento, perché è l'ultimo residuo di una cultura arcaica, anche molto patinata, molto aristocratica. Sì, ma, sì, no, ma anche, secondo me, anche secondo me a Torino ci sarà la vittoria. Ieri sera, quando i 5 Stelle erano meno istituzionali di adesso, erano più rabbiosi, abbiamo due casi. Nogarin a Livorno e Pizzarotti a Parma. Sì. Il candidato contro Pizzarotti era mio amico, l'ottimo Bernazzoli, uno tipo Fassino, ordinato, serio. Sì, come no, sì. No, e ha perso secco da Pizzarotti. Perché? Perché vuoi immaginare un solo che ha votato la Meloni che non vota la Raggi e uno solo che ha votato 5 Stelle a Milano che vota Sala? Fermo là, Parisi non è un rivoluzionario, però fermo là, fermo lì Vittorio, non te ne andare, non te ne andare, fermo. Cruciani, Parenzo, Marameo. La Zanzara. Vittorio mi deve spiegare un attimo la vicenda di Costanzo Procio, adesso me la spiega, adesso me la spiega bene. Però voglio dirti, voi siete uno strumento formidabile di comunicazione. Faccio la dichiarazione da assessore, risposta da Trieste. Geniale Vittorio, geniale, una vostra bronziriace Boccioni, eccezionale. Sto per dire, quindi basta che una cosa venga detta, recepita e già diventa. Ma certo, che riguarda portare ovunque. Aspetta, c'è una persona che ti vuole parlare, un tizio che vuole intervenire, non so, mi sta rompendo i coglioni come un pazzo. Aspetta un attimo, fermo. Chi è? Come ti chiami? Sono io. Sì, dimmi. Giovanni, Giovanni, sì, ciao. Complimenti, Giovanni. Complimenti per la trasmissione. Dimmi. Ma io volevo dire semplicemente questo, che è il solito trucchetto del professor Sgarbi. Cioè? È il solito trucchetto. Ma quale trucchetto? Quale? Non ho capito. Il trucchetto per restare dipendente. Aspetta un attimo. Giovanni da Belletri, sì. Giovanni da Belletri, sì. Vai, dimmi ma Giovanni. Siamo in diretta, sì. Sì, Giovanni, dai, no, forza. Stavo a dire che è il solito trucchetto del professor Sgarbi. Qual è il trucchetto? Qual è il trucchetto? Per restare dipendente pubblico, questo insomma... Ah, quello dell'assessore. E sta a collezionare assessorati, perché una volta assessore, poi un'altra volta è stato pure sindaco d'una città che poi è stata pure commissariata. E questo colleziona assessorati, diventa sindaco, eccetera, sono soldi pubblici che paghiamo noi, capito? Ma non lo so se è per questo, non credo che sia per... Ormai sparite le polli. Ma non credo che... Solo che a non... noi ci viene da piangere perché paghiamo noi. No, ma non credo basta, che sia un trucchetto... basta. Non credo che sia un trucchetto per restare dipendente pubblico. No, allora che mi spieghi cos'è, perché ma fa l'assessore perché... c'è gente entusiasta ma te la che avrebbe voglia di fare tante cose. Ma te l'ha spiegato prima, Vittorio, rispondi a questo. Ma non so cosa rispondere, ho sempre fatto le funzioni pubbliche senza prendere stipendio, quindi può stare tranquillo e andare a casa. Sono in aspettativa senza stipendio, fate il sindaco San Severino senza stipendio, ma sarei di senza allora stipendio. Senza stipendio se ne stia a casa, fatti i tuoi, retto il culo, fatti i tassi tuoi e studia, guarda quello che faccio, guarda le cose che ho fatto, studia, non dire cretinate. Allo sciolto il comune di Salemi, perché è uno stato di merda in cui c'è Alfano ministro, e ho sciolto un comune in cui non c'era un solo mafioso. Hai capito? Studia, leggi, ignorati. Che se compiere io non ho senza stipendio, sono senza stipendio, imbecille, incapace. Ma studia, ma studia. Giovanni, non ho capito perché. Studia, ma studia. Qualcosa di sbagliato. Giovanni, hai detto una cosa. Ignorante, io non prendo stipendio, sono in aspettativa senza assegni, chiaro o no? Giovanni, non ho capito che c'è. Non è che sia tutto così chiaro. Taci, che devo tacere? È mio diritto delle cose che faccio. Vai a Salò, vai a Osimo, vai a studia. E questo me la deve spiegare pure. Anzi, vai a fare in culo. Anzi, sei un ignorante. Vai direttamente. Non parli l'italiano, non conosci l'italiano. Prendi i giornali, ci sono idiozie. Dai, su, gioco. Questa reazione conferma quello che sono. La reazione conferma che parli di cose che non sai. Non prendo stipendio. Ho fatto il sindaco. Basta, su, senza dai. Stipendio. Dai. Ho lavorato Giovanni. Con un matto e hanno ciò squadra. Perché sono mafiosi loro. Sono mafiosi loro. Scusa Giovanni, non ho capito perché dovrebbe fare queste cose qui per restare dipendente pubblico. Che cazzo gliene frega di restare dipendente pubblico? Giovanni, ma dai, dai, su, vai a fare in culo, che vai faccia, via. Che vada a Osimo a studiare, vai, vai a vedere quello che ho fatto prima di parlare, che legge i miei libri, ignorante, non il giornale del cazzo. Vabbè, Vittorio, che c'era? Quella la cosa di Costanzo qual era? Cos'era la cosa? No, che era frocio Costanzo. Ma no, ho fatto la battuta dicendo, siccome si parla, i gossip sono legati solo alla sfera sessuale. Si parlava del bagnino di Parigiana, come hai fatto tu, in maniera divertente, che dove lei scopa ancora con chi scopa qualche anno fa. Sì, sì. Il gossip vale per la povera ragazza che è bella se la scoprirebbero tutti, che è la Belenna. Gossip vale dove c'è la sfera sessuale, omosessuale o eterosessuale. Allora dico, di te si parla, non si parla più perché non fai sesso. Chi parla mai di Costanzo? Oltretutto sei gay, perché hai sposato un uomo. Era un gioco assolutamente divertente, che te ti diverti perché la materia ti piace, ma ovviamente era paradossale. Mentre questi cretini con cui fai parlare sono persone che non studiano, che non vanno a vedere le mostre, che non sanno quello che fanno. Vabbè, lascia perdere adesso, che cazzo devo dire? Soltanto lo scioglimento per mafia, perché quella merda di Alfano, traditore, infame e peggio che mafioso, si è permesso di sciogliere un comune, anzi di... Vabbè, ma sì, ma che cazzo ci frega? Non c'era un solo mafioso in quel comune. Storia vecchia, senti, io non ho capito una cosa, ma dunque, non volevi dire che Costanzo è omosessuale? Ma no, che me ne frega, volevo dire che la sua ragazza, la sua donna, che ha un temperamento così virile, è un uomo. Lui è un uomo, sono due uomini. In caso non c'è nessun problema. Capisco che voi vogliate fare la materia, ma non c'è nessun pettegolezzo, c'è un divertimento verbale. Mi pare invece inaudito che l'Italia parli ancora di queste cretinate a fronte di uno che fa cose tutti i giorni, che tutti possono vedere e leggere. Ma certo, non dai, legge e tira fuori la cretinata dallo scioglimento di mafia. Lo scioglimento di mafia in Italia, per lo Stato. A Salemi non c'era un solo mafioso. Senti, ma non sciolgono. Non ho capito una cosa. Sì, è interessante la teoria dello Ius Ultime Noctis. Quello è molto divertente. Quando tu cerchi lo Ius Ultime Noctis, oggi che le ragazze scopano prima di 14 anni, non diciamo quando, ma forse anche prima, rischi sempre di avere una minorenne vera, cioè sotto i 14 anni. Quindi lo Ius Ultime Noctis è finito. Sì. Se la danno, è meglio che tu non la prenda. Ma lo Ius Ultime Noctis. Questa è la moglie di quello, quello che ha parlato, quello che ha parlato prima. Una moglie che non scopa più, che non sa cosa fare della sua vita, decide l'ultima volta di darla a te o a me. E noi la trattiamo come una regina. Sì, questa è una meraviglia. Questo è bello. Però come si fa a sapere qual è lo Ius Ultime? Si deve intuire. Quando cominciano a non dipingersi i capelli, si ritengono bianchi. Quando vedi che hanno un'aria un po' messa, abbassano gli occhi. Tu devi essere lì pronto a farli riaprire, a far sentire loro che sono delle regine, a farle vivere. Quello che non potrà mai capire, quello che ha parlato al telefono, che non ha mai visto figa in vita sua. Sì. E se ha visto figa, adesso solo la figa di sua moglie, la quale non vede l'ora di tradirlo con un altro e di trovare uno che si prenda finalmente il fiore estremo. È appassito della Ma lo Ius Ultime Noctis, però oltre a dover intuire che sarà Ultime Noctis, significa a un'età piuttosto avanzata. Beh, diciamo. Certo, questo l'abbiamo già detto. Cioè, ma tu hai detto anche che scoperesti la Ripalineana. Assolutamente, la Ripalineana sì, ma domani mattina di questa decisione. O ha già superato la soglia. Io ho trovato una donna che mi piaceva due o tre anni fa. Sì. E mi ha detto: guarda, io sono 4 anni che non scopo, non scoperò più. Era troppo tardi, ma se l'avessimo riaccesa era una donna piacente, bella, ora come è anche la Maria di Parigiana, ma perché Iusso... non si parla più di lei? Sì. Perché non scopa più, certo. Se scopa con te vedi che ricomincia. Ma lo Ius Ultime Noctis dura una sola notte? Vabbè, oppure ovviamente è l'ultima notte, no, solo una notte, questo cioè è un abbonamento. Poi, ma per esempio tu sei un appassionato per esempio della vulva, cioè della figa, diciamo la verità, diciamo è bianca, cioè con i peli bianchi. Quella ne ho vista poca, però sono appassionato del pelo, quello sì, quello sì. Ecco, quindi se non, però dico che generalmente quelle che ricordo non erano bianche, però se anche lo fossero sarebbe sempre segno della nostra volontà di dare colore alla vita. Ius Ultime No, forse potremmo essere tornare... i primi al mondo che ne parlano. Credo sì, che sia una credo, anteprima assoluta. Credo che bisogna inaugurare questa cosa. Invece dello Ius Prime Noctis, che in realtà ormai è scomparso, oppure può provocare dei guai seri. Dei guai seri, meglio avere lo Ius Ultime Noctis. È molto difficile da capire perché dopo non si sa che succede. Mentre lo Ius Prime Noctis più o meno si capisce, no? Cioè, roba vecchia. Ma lo Ius Ultime antica. Noctis, come fai a capire se quella dopo non fa niente? Vabbè, dopo non lo farà, ma non è che tu devi proprio. Tu capisci che lei è arrivata al momento della conclusione. Sì, se poi tu riaccendi la speranza, hai fatto sempre un bel gesto. Senti, dico che noi. Sì, in quella ricerca saremo innovativi, pieni di generosità, pieni di affetto e faremo una cosa che forse piace anche a noi. Va bene, ciao Vittorio, ciao, ciao. Ciao, ciao, ragazzi, ciao. Ciao professore. Massimo Verona, vai Massimo, vai, vai. Eccomi, ciao. Dimmi, dimmi. È stato una standing ovation a Sgarbi, che ha delle verticali di concetti che fa veramente impazzire. Vai, mi dimmi. Piace di più quando parla di figa che non di quadri. Ti ecco. Volevo riportare il in realtà io ho visto Vittorio all'opera nella spiegazione di quadri. Beh, diverse mose, diverse situazioni, immenso. Ed è insuperabile. Dipende sempre dalla cultura, è ovvio. Ho capito, ragazzi, però a voi vi piace più quando parla di figa, ma che vuol dire? Cioè, siete un branco di maiali, dai, voi, ma insomma, dai, comunque. Insomma. Vai, vai, dimmi. Brevemente branco di manie, sì, sì. Dimmi, dimmi. Volevo riportarti i consigli di mio nonno, il quale diceva sempre, mi diceva sempre, mi ricordo che mi diceva che praticamente tutti quanti siamo dei becchi inconsapevoli. Becchi, ecco, significa cornuti, sì. Cornuti inconsapevoli. Sì. Perché? Anche Cruciani, anche Parenzo sono cornuti, tutti sono cornuti perché non lo sai, non lo puoi sapere, sicuramente non verrà mai a dirtelo tua moglie, tua fidanzata se ti ha fatto qualcosa. E allora questo è un concetto e che... E cosa diceva? Semplice. Qual è il consiglio che dava? Di solito i nonni danno i consigli. Sempre, no? Mi diceva sempre, caro mio, scopale tutte che hai fatto la metà del tuo dovere. Beh, un nonnino piuttosto attivo, diciamo. Scopandole tutte facevi la metà del tuo dovere. Anche mio nonno era così, devo dirti la verità. Caro Davide. Anche mio nonno era così, è uno che toccava... Si capiscono molte cose, dai. Toccava il culo alle cose, toccava il culo. Ma anche, ma dai, ma non deve la memoria di tuo nonno. Sì, o faceva finta, ma mio nonno era un vecchio puttaniere. Tra l'altro sono venuto a conoscenza. Probabilmente non ho mai fatto niente, però era in... Come dire, come idea era un puttaniere, cioè come... No, era un puttaniere nella sua testa, nei suoi atteggiamenti, nell'animo. Non era... Poi nella praticità no, perché insomma 60 anni fa, dai, 70 di più. Vabbè, fermi tutti, fermi. A Crucia sto a passare sulla Salaria, è pieno di mignotte. Quasi quasi mo me fermo. La Zanzara. Ciao Cruciani, voi tutti fate sotto la doccia o nel lavandino, io invece lo faccio nel bidet. Come tutte le volte prima di entrare in turno vado a pisciare e mi macchio le mutande, siamo al top. Amore, una mega pipì. Anch'io, posso fare io come Cruciani? Come fa Cruciani? Pisciare nel lavandino. No, non puoi. Dai, lo fanno tutti! Non me ne frega un cazzo di quello che fa Cruciani! Siamo al top. Sto riempiendo la vasca, così mi immergo, mi rilasso e mi piscio addosso. Ah, siamo al top! Allora, prima di lasciarvi al traffico, dopo sarà con noi Maurizio Gasparri. Caro Parenzo, chi c'è dopo? Maurizio Gasparri, conosci? Ah, buon vecchio Gasparri, ogni tanto ritorna Gasparri. Allora, 850 dipendenti dell'ATAC a Roma, sapete, l'azienda di trasporto di Roma, scrutatori delle elezioni, possibili disagi. Io vi dico solo questo, in quale paese, in quale mondo, in quale città ATAC fa sapere che, visto l'alto numero di dipendenti, scrutatori e seggi, disagi saranno possibili sulla propria rete di trasporto sino a martedì. ATAC ha organizzato il servizio per minimizzare gli effetti. Ma questa città è riformabile. Ragazzi, ma non è possibile. 850 dipendenti dell'ATAC. Ma non è volontario fare il lo servizio di trasporto della città di Roma. La città di Roma, siccome devono essere sostituiti, andranno a fare gli scrutatori delle elezioni. Disagi per la circolazione. Non voglio nemmeno commentare. No, ma non si può commentare. Cruciani, ma il traffico durante la zanzara dovrebbe diventare un reato penalmente perseguibile. La zanzara. Voglio essere solidale con Parenzo. Ho passato la giornata di ieri a cercare di sturare il cesso di casa mia, ma senza aiuti. Solo braccia, stracci e merda. Tanta merda. l'hai poi riparato il bagno a Siena o no? Non lo so, bisognerebbe chiedere. No, però mi risulta ancora rotto, quindi... Mamma mia, che tragedia. Non sei stato in grado nemmeno con l'albanese che hai affittato lì, hai affittato. No, albanese, era un vicino di casa, albanese, esatto. Hai fatto la ricevuta? La ricevuta che, l'hai fatta? No, perché non è venuto, è un amico, è un vicino di casa, non è un idraulico. Avviso a tutti, il problema del bagno di Parenzo a Siena, ecco, esatto, ancora non risolto. Sì, esatto. Torniamo a Roma, elezioni. Maurizio Gasparri con noi, vicepresidente del Senato. Buonasera, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a voi. Povero Parenzo. Ma ciao. Ti si sarà rotto anche a te il bagno una volta, immagino. No, non si rompe mai. Poi non chiamo albanesi in nero per fare delle cose. Adesso, albanesi in nero, assolutamente, allora, la chiamano. È un albanese che... Ma guarda te se mi dovete rompere i coglioni. È un albanese. Sempre. Scusate, sempre, per evitare l'equivoco. Controllate. Per evitare l'equivoco. Andate a controllare, guardia di finanza di Siena. Andate a controllare. È un albanese vicino di casa che lavora, fa un altro mestiere, perché fa il cameriere. Ma poi l'idraulico non era polacco, c'era l'idraulico polacco. Una volta sì, c'era lo spauracchio dell'idraulico polacco in Europa. Poi siete... quello è imparato e fa la fattura, e quindi non lo chiama più, parente. Incredibili siete. Io faccio sempre la fattura. Allora, volevo chiedere a Gasparri, niente cibo nei caffè. Condividerò con la città il mio Ramadan da sindaco di Londra. Vedi, Sadiq Khan è un grande esempio. Io, come dici, non trovo un fatto positivo che Londra, capitale della cultura occidentale, dell'economia occidentale, della democrazia occidentale, le prime assemblee parlamentari, la Magna Carta. Oggi abbiamo un sindaco islamico, saranno un fondamentalista. Sui giornali si è parlato di qualche sua frequentazione di anni fa, non brillantissima. Ora è fatto, per carità, sì, ci sarà la globalizzazione, però da Londra uno si aspetta altri messaggi che non un sindaco, che ha anche detto un messaggio straordinario, che dice che proprio durante la mano diventa nervoso perché non può prendere la caffeina. Che succede? Fa il sindaco in condizioni non normali, qual è il problema? Cioè veramente mi ha sorpreso. Sparli contro il sindaco di Londra, ragazzi, questi eleggono e l'hanno eletto. Io preferivo un sindaco laburista o conservatore inglese, il sindaco deve meglio comunista che islamico, meglio comunista inglese o doc che islamico, immigrato di seconda generazione che fa il Ramadan. Il sindaco di Londra che fa il Ramadan mi pare una cosa proprio che è un grande esempio, è un grande esempio. La regina, salvi la regina, come il dice, futuro che è già presente. Allora, però Totti oggi ha fatto capire, anche se secondo me è stato mal interpretato, Totti ha detto una cosa, che ha rinnovato il contratto con la Roma. Ma vabbè, lasciamo perdere questa roba qui. Questo è un fatto, è lui che ha rinnovato il contratto a Pallotta, perché se Totti non vuole Pallotta torna a Miami. Cioè può essere licenziato, dice Totti, può licenziare Pallotta. Dubbio, non c'è dubbio. Cioè se dice una parola contro Pallotta, Pallotta se ne deve andare. I proprietari della Roma siamo noi tifosi della Roma. Abbiamo anche comprato le azioni anni fa per un fatto. Non gli americani, dici. Totti è il simbolo di Roma. Vabbè. E Pallotta è ospite, raro, viene poco e quindi si comporti bene, perché sennò non gli rinnoviamo il contratto. Però Totti ha detto che lui è favorevole alle Olimpiadi e questa cosa qui ha fatto scattare il Toto, l'allarme rosso. Cioè l'allarme rosso. No, il Toto voto. Il Toto Totti. Cioè per chi vota Totti, molti dicono vota Giachetti perché è favorevole alle Olimpiadi e non la Raggi. Io avrei evitato. Io sono un tottiano convinto, ho anche avuto una discussione recentemente allo stadio con Spalletti perché l'ho criticato per come ha trattato Totti. Quindi premesso che sono che discussione c'è avuta? Si è messa a litigare con Spalletti allo stadio? Pure io diciamo faccio dei commenti a volte. No, lo so. Ho criticato la questione dei 4 minuti di Totti. Sì, ma ti sei messo a litigare con lui, con Spalletti? E poi Spalletti l'ho visto alla partita della Coppa Italia, la finale, stava in panchina, era in tribuna e mi ha detto: "Ah, ma lei mi ha detto qui, lei non sa che Totti non ha voluto scendere in campo a 20 minuti dalla fine". Ho detto: "Io questo non lo so, ma dico lei mettere Totti 4 minuti non va bene, Totti va rispettato". Hai litigato pure con Spalletti? Ho criticato, ho detto quello che pensa tutta Roma quella sera. Poi Totti ha creato una leggenda con i due gol, ma tutta Roma ha ritenuto l'entrata in campo a 4 minuti dalla fine. Ma come, in questo caso ha sbagliato? In questo caso ha sbagliato. È un buon allenatore, sono no? Ma in questo caso ha sbagliato Totti a parlare. In questo caso, siccome allora Totti, non lo so se oggi ha l'esigenza di parlare delle Olimpiadi, tutti hanno letto questa dichiarazione come un endorsement, un sostegno a Giachetti. Per forza è favorevole a lui. E la Raggi non è favorevole. Prima c'erano 17 candidati fino a domenica, ma ne sono rimasti due. Certo. Le conseguenze sono chiare. Io sono contrario ai campioni sportivi amati da tutti, comunque votino e pensino, che fanno dichiarazioni. Buffon si è arruolato nel renzismo, forse per cancellare la memoria di una sua attribuzione all'area della destra, anche estrema da giovane, cosa che forse era falsa. No, e non era falsa, non era falsa. Era vera. Quindi Buffon, per espiare le presunte colpe, si è messo a fare il renziano sul referendum, che mi è sembrata una cosa patetica. Ecco, ma... Totti, devo dire, doveva evitare, sa perché? Perché? Voglio essere molto franco, se no non so come stare. Ecco, la famiglia Totti è stata un po' chiamata in causa nelle vicende di Roma, di Roma capitale, come no? Di mafia perché capitale. Dicono che il fratello abbia comprato un palazzo che era della Telecom, dopodiché questo palazzo che era della Telecom, comprato, io immagino con i guadagni di Totti, il fratello, il calciatore giustamente guadagna quello che merita, io sono per il contratto a Totti. E poi questo palazzo però è stato immediatamente dal comune di Roma, era l'epoca, affittato per, poi per affittato per le emergenze abitative, quindi hanno comprato nella certezza di, come posso dire, di un utilizzo e di un incasso garantito. Odevaine, personaggio molto controverso dell'epopea peltroniana, è stato agli arresti domiciliari in galera, mesi. Era vicino un a Totti, protagonista del Partito Democratico dello scandalo di mafia capitale, è quello che si sarebbe interessato di questa cosa. E allora, siccome Totti noi lo ammiriamo, io lo ammiro come campione, un uomo semplice, siccome è stato coinvolto in mafia capitale la famiglia, tu dici? Non è stato coinvolto in mafia capitale, sfiorata, si è parlato di questo palazzo. E guarda, hanno scritto un libro, questa cosa, un giornalista del fatto l'ha messa in un libro. Vabbè, ma che vuoi dire? Non doveva parlare di queste di comunque... Allora è meglio non entrare in queste discussioni politiche, perché poi si dice allora quello appoggia quelli del PD e allora uno poi si ricorda di aver letto questa cosa, come dire, ma dice ma era un'altra era, non c'era Giachetti. È spiacevole, non è spiacevole. È stato capo segreteria di Rutelli, è stato insomma sta dicendo che un campione come Totti dovrebbe, non dovrebbe, diciamo, far capire per chi vota, non dovrebbe far capire a sinistra. Ma sì, come ha fatto male Buffon, ma Buffon perché l'ha fatto? Prima ha detto addirittura che Renzi è un innovatore, poi addirittura ha detto che vota sì al referendum. Perché intervista... evidentemente deve emendarsi da questa attribuzione giovanile. Lei mi ha detto che è anche vero. Io non ho mai parlato di epidemia con Buffon, lo considero un grande portiere, gli si attribuiscono delle simpatie, record di imbattibilità, quindi ma il capitano della nazionale che vaglia europei, ma deve essere di tutti, il capitano della nazionale che vaglia europei deve essere di tutti, ma è un'ipocrisia, ma scusami, ma io veramente, ma è un'ipocrisia, ma come si fa? Perché è un libero cittadino, è un very VIP, ma quando uno ha la stima di tutti sono dei giocatori. Qual è il problema? No? Qual è il problema? Qualcuno dice che non è farina del suo sacco, eh? Qualcuno dice il problema. Se l'avesse detto, se avesse detto che vota per Gasparri, non avresti detto questo. Allora, però le posso dire, se uno fa una scelta controcorrente e si schiera per l'opposizione del momento, è più coraggioso. Se uno si schiera per il partito che sta governando, poco, ma che coraggioso gli va in tasca? E allora è poco coraggioso. Ma come coraggioso, no? Perché? Che gli va in tasca? Sì, qual è il vantaggio? Perché se appartiene a tutti, poi alla fine deve essere di tutti. Appunto, ma qual è il perché di tutti? Totti è di tutti. No, però aspetta, ma Buffon, io voglio capire una cosa, ma è farina del suo sacco quella che abbiamo letto, secondo te? Maurizio. Ma sì, c'ha 40 anni, mica è una persona intelligente. Non so, sai con chi sta, no? Sai con chi sta adesso? Non lo so che stava con la giornalista di Sky, con la D'Amico, che è una persona molto brava, cioè, qualcuno dice, ho letto l'ammirazione di tutta l'Italia, quindi Buffon è un uomo fortunato, c'ha una donna meravigliosa, ha battuto il record di imbattibilità, è il capitano nazionale, è molto bravo, non può fare il renziano. No, dico, non ha bisogno di questa roba, capito? Ma anche questi campioni non hanno bisogno di piaggerie, questo è il punto, questi grandi campioni e idoli. Ma perché? Proprio perché sono forti di loro, perché sono grandi, guardi, indipendentemente dalla politica. Renzi, questo è il punto. Io invece voglio fare un applauso a Tavecchio, il grande Tavecchio, uomo che libero e coraggioso. Un personaggio incredibile. Si è perfino permesso di dire quale doveva essere il commissario tecnico della nazionale, segnalando il peraltro ottimo e apprezzatissimo Montella. E quindi sembrava che il Presidente del Consiglio ordinasse a Tavecchio, tante volte ma criticato. Ma no, ma questo non è vero. Tavecchio, come no, l'ha detto, incontrando Tavecchio. Sì, vabbè, ma non è... Prendi Montella, che poi tra l'altro è bravissimo Montella. Dopodiché Tavecchio, ombre vertical, ha preso lo stesso, quello del Torino lì. Ventura, Ventura. Ha fatto il contratto a Ventura. Per cui, mentre qui tutti corrono appresso a Renzi, Buffon dice che Tavecchio... Totti mi fa questa esternazione non richiesta sulle Olimpiadi, cioè, capito, non è che Totti parla tutti i giorni o fa l'ultima dichiarazione di tu Totti fu al telegiornale perché non lo facevano giocare. Ma tu pagherai il canone della Rai, Maurizio? Io lo pago, è intestato. Ma lo pagherai moglie. Dopo, lo pagherai, sì, per forza. In bolletta. È intestato, io lo pagavo già prima, è intestato a mia moglie, siamo sposati, abbiamo insieme e lei paga. Il canone è intestato. Senti, a ma Giachetti sindaco, come lo vedi tu? Cioè, se dovesse diventare sindaco Giachetti. No, perché io non condivido le sue idee, lui a favore della legalizzazione delle droghe, si vantò in Parlamento di aver usato, non so se ha smesso, hashish, beh, tu l'hai definito, l'hai definito tossicodipendente praticamente. No, abbiamo avuto una discussione in Parlamento anni fa e lui poi no, ma anche adesso, dice no, lui disse che usava, spero che abbia smesso, questo sta a lui smentirlo. Giachetti, usi ancora, ti fai una canna ogni tanto, beh, capirai che reato è, figurati. E dov'è il problema? Che fa il Ramadan, se sei sindaco di Roma e se fa le canne, e poi io non voterò né Giachetti né la Raggi. Meglio la canna del manganello. Dei grillini ne penso quello che pensavate, forse pare che anche Cruciani qualche volta ha avuto qualche cosa, vabbè, voglia, come no, con i grillini, no? E quindi i grillini, anzi, lo dico, ma non ho capito, tu ti va male stavolta a Roma, volare, qualunque cosa accada ti va male, Gasparri, questo vabbè, è il punto. Io accetterò l'esito democratico, ci mancherebbe altro. Però dicevo, in mano a Roma, in mano a Giachetti, Roma che diventerà la città delle canne, no? E tutti che se fanno le canne, un fumo ci sarà, chiudono pure l'aeroporto per nebbia. Ma cioè, non ho capito, ma perché attribuisci? Cioè, hai detto pure che lo vedi ogni tanto tutto strano in faccia perché uno se fa le canne da 30 anni. Non lo so, io credo, allora lui ci dica, siccome in Parlamento anni fa una discussione anche, come dire, non drammatica, diciamo spontanea, lui disse alzandosi in aula quando ero deputato, insomma, rivendicò questo fatto, che prenderà ancora più voti per questo. Io ho contestato ogni qualvolta di discutere di questo tema, che è un tema ricorrente. Allora lui ci dica, ha smesso di fare un uso anche episodico, saltuario. Ma ogni tanto se farà una canna, adesso lo dirà pure. Io spero di no, perché comunque se tu per 30 anni, anche non in maniera continuativa, di fare le canne, alla fine insomma è meglio non essersene fatte. Cioè tu dici che il cervello... Se fosse un pilota dell'Alitalia forse lo metterebbero a terra. Cioè dici che il cervello... siccome non voglio sostenere la Raggi... Non mi assenso da giudizi. Ma tu dici che se ha fatto per 30 anni uso di droga il cervello non gli funziona, questo dici? Diciamo che se uno ha fatto un uso, dipende da quanto ne abbia fatto uso, il maggiore o minore uso può determinare maggiori o minori conseguenze. Benissimo non fa. Comunque ci sono sul web degli odiatori di Buonanno che hanno scritto le peggio cose su Buonanno. Che vergogna, guardi. Io l'altro giorno ad alcuni li ho evidenziati, ho diciamo raccolto alcune di queste dichiarazioni che vanno denunciate. Oggi abbiamo ricordato Buonanno al Senato e sono intervenuti esponenti di vari gruppi e il rappresentante della Lega, il senatore Consiglio, lo ha ricordato e alla fine anche ha biasimato questo fatto. Vedi, io Buonanno pure Scanzi ti ha definito un mononeuronico, mononeuronico. Vabbè, ma lasci perdere, qui stiamo parlando di persone nell'umanità, non stiamo parlando della subumanità, insomma. No, dai, addirittura ma come si fa a dire subumanità, ma no, dai Gasparri, però ma... di Buonanno, io ho conosciuto Buonanno nel 94, era un giovane sindaco, pensi un po', di Alleanza Nazionale, no, anche del Movimento Sociale, poi era già diventato sindaco, poi era il suo percorso è proseguito con la Lega. Vabbè, ma c'è gente che dice, uno addirittura un giornalista di Radio Popolare, io mi sono fissato su questo, un giornalista di Radio Popolare ha detto fascista, nazista, sono contento che sei morto, così ha detto. Uno di Radio Popolare l'ha detto? Sì, uno di Radio Popolare. Un tale si sa il nome. Alberti. Sì, vabbè, ma... No, me lo dica, perché domani io sono giornalista professionista, chiedo l'espulsione dall'ordine. Se lei mi dà il nome... Alberti domani... si chiama, Alberti. Magari ha espresso un'opinione personale, scusa. Magari ha espresso un'opinione personale, ma... Certo, no, guardi, adesso io faccio una verifica, spero che ci sia anche... Ragazzi, mi dite un attimo come si chiama questo e qua? Chiederò all'ordine di Massimo Alberti di Radio Popolare. E ha detto che era contento e era molto Buonanno. Assolutamente, sì. Però ha detto, scusa, ha detto una sciocchezza io assoluta. Io che faccio parte dell'ordine dei giornalisti dagli anni Ottanta chiederò l'espulsione di questa persona indegna, Massimo Alberti di Radio Popolare. Sì. Chiedo che venga espulso dall'ordine per indegnità. Scusi, Parenzo. No, ma io non lo difendo per nulla. Una cosa del genere. Io non lo difendo. L'hanno aggredito perché non è vegano. Io non lo difendo per nulla questo che ha scritto questa stupidaggine, ma ci mancherebbe altro, non si augura la morte a nessuno. Dico semplicemente però che Gasparri, come altri deputati, ha l'immunità, quindi lui può dire qualunque cosa, mentre questo giornalista che ha detto una stupidaggine deve pagare per aver detto una stupidaggine. Toglietevi anche voi l'immunità per le cose che dite. Devo chiudere, non ribalti la frittata. Sì, certo che la ribalto. Ha detto questo, ma è espulso dall'ordine dei giornalisti. Fermo, devo chiudere. Sarebbe come chiedere le sue dimissioni per le sciocchezze che dice. Ma lei è iscritto all'ordine. Dobbiamo chiudere, certo. chiudere. Certo che sono iscritto. Chiudiamo. Giornalista professionista. Siamo un ordine democratico. La zanzara è un meraviglioso allucinogeno. Peccato che dopo 2 ore si ritorni alla cupa realtà. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta La Zanzara. Sono in palestra, sento la zanzara e accanto a me ci sta una ragazza di una bellezza inaudita. E come contraggo questo perineo voi non lo sapete, non lo sapete cazzo. Siamo al top. Ragazzi, avevo un colloquio di lavoro e mi sono messo a parlare di minima penetrazione e massima ritrazione. Con mia moglie ormai parliamo solo di andare in vacanza a Pomezia. Piscio solo nei lavandini, non riesco più a fare pipì nel cesso. Basta, basta, basta. Vai ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Milano, Lino. Buonasera, dica, dica, Lino. Buonasera, buonasera Cruciani. Vai, vai, vai. Volevo dirle che in merito alle telefonate che avete fatto a Platini, io volevo dirle che se lei, Cruciani, abitasse a Platini, si comporterebbe esattamente come si sono comportati quei 4 vecchietti. Non lo so, può darsi, ma non lo so. No, che mi interessa, scusa, che importanza ha? Come, che cosa interessa? Perché Lino, secondo... però parla col telefono attaccato bene alla bocca. Forza, dai, senza viva voce, senza altre cose. Questo grac. Vai, Lino, dimmi. Ok, volevo dirle questo, che lei, sono sicuro che si comporterebbe allo stesso modo. E queste iniziative che ogni tanto fa, perché io l'ascolto ogni tanto, praticamente queste iniziative che fa non fanno altro che fare pubblicità all'Ndrangheta. Ma pubblicità mi faccia finire. Fa la pubblicità perché dimostra che è così potente che la gente neanche c'ha il coraggio di dire che esiste. Questa è la verità. Vabbè, Lino, ciao. Luca, Milano, vai. Boh. Luca. Wow. Dimmi. L'atteggiamento di Parenzo con Sgarbi è una forma di spettacolo pura. Che vuoi dire? Avesse... Scusami, che vuoi dire? Voglio dire che chiunque altro si chiamasse Rossi o Bianchi, esprimesse i concetti che ha espresso Sgarbi, Parenzo non direbbe sì, Vittorio, certo Vittorio, bella idea Vittorio, sarebbe una bestia assetata. Ma guarda che mi sono confrontato con Sgarbi, se risenti le registrazioni della radio, più volte ci siamo scannati, ma dipende da cosa dice, dipende dal tema, non è che a prescindere, siccome è Vittorio Sgarbi, io lo devo attaccare. Parenzo, che copione hai letto? Qui non c'è il copione, Parenzo, salame. Quando l'interlocutore, vedi? O l'ospite, ed ma tu le litigate con Sgarbi, lei l'ha sentito o no? Persona potente o influente. Ma lei ha mai sentito le mie litigate con Sgarbi o no? Soprattutto, ma no, perché dice cazzate, siccome dice cazzate carriera, quale cazzate? Trasformi in un tappetino di baffa. Ma tappetino sarà lei e la tutta la sua famiglia e sua moglie, se ne ha una, ma non credo. Sai quando raggiungi l'arte, quando stai parlando con qualcuno che è della parte avversa, sì, vero. Alla tua politica, giusto, vero. Ma è un tuo collega, vero. È una persona, diciamo, più influente. È così, esatto. Ferrara, vero, o... sì. Chiunque. Cioè, secondo te si mette a tappetino in quel caso? Esatto, sì, è vero. Diciamo che a Napoli si direbbe che teni palla, una cosa del genere. Esattamente. Parenzo, rispondi? No, rispondo che ha ragione, è vero. Fino alla nausea nei confronti dei personaggi che lui ritiene che vero. In qualche modo possano... Siccome lei invece la ritengo un subumano, così è contento dell'insulto. Ho preso nel segno? Siccome ha detto la subumano, dai, sì, che ha detto? No, ha detto che stronzo, qualche volta, secondo lui, ma è la stessa cosa che dicono a me in altre occasioni. Appunto, io gli ho detto, siccome non capisce perché non... Ne è un'altra, una piccola chicca. Siccome lei capisce quello che vuole, come giusto. Fammi sentire Luca. 2 anni fa gli hanno chiesto, Parenzo, ma lei è laureato? Sì. Parenzo ha risposto, io ho fatto giurisprudenza. No, io ho detto, io ho fatto il liceo classico. Non ho mai laureato, ho fatto giurisprudenza, lo sa chiunque. Ma che vuol dire questo, Luca? Non ho capito. Allora? Dire che uno dice no, Vabbè, ma le dice, ma lo no, sa chiunque. Digli adesso, no, non mi sono laureato. No, ma lo sa chiunque. No, ma chiunque, non mi sono chiunque, laureato adesso, lo sa chiunque. Beh, lo diciamo sempre in trasmissione, ogni tanto. Un leone, un vero leone. Lei vabbè, invece è un simpatico coglione che però mi paga lo stipendio perché ha telefonato. Paolo da Pavia, Paolo da Pavia, ciao bene Luca, per ciao. Questo, Paolo perché Pavia, mi paga vai lo stipendio. Cruciani, per una volta avevi fatto una domanda giusta a, da giornalista a Sgarbi. Per ma una se volta prende, sempre. Se prende le indennità per tutti questi lavori da assessore che ovviamente sì, non può sì, fare. Sì. E dopodiché sì ti fai fare dire se no, che lui certo usa che i soldi pubblici per pagare le querele per diffamazione che perde. Cioè quest'uomo qua usa i soldi pubblici per pagare le sue diffamazioni. Ma uno prende no, i soldi pubblici per fare quello che vuole. Per il lavoro che ma fa. Sì, poi dopo dai, come li spende cortesia sono fatti no, lui ha detto siete che i soldi... con Sgarbi. Ma io sono tappetino con Sgarbi quanto mi pare, non me ne frega niente. Lascio parlare Sgarbi perché mi interessa sapere quello che dice, eccetera. Ogni tanto abbiamo litigato anche noi. Appunto, certo. Lo sai benissimo ma quanto abbiamo litigato. Ma rimandala in onda, così non rompono le scusa, non ho capito. Con Sgarbi abbiamo praticamente... il diritto di diffamare. È una roba pazzesca. Allora, lui ha detto un'altra cosa, che i soldi da assessore a Urbino, credo a Urbino, li dà a... ma non è che li dà lui, Caselli. Sono presi direttamente dal suo. E poi, comunque, per diventare assessore in un posto ci vuole qualcuno che lo nomini, cioè, non è che uno arriva qualcuno così e fa che la stessa cosa. È uno che va a cazzo di soldi pubblici, aveva ragione quello che è intervenuto prima. È uno che vuole essere sostanzialmente mantenuto dalla comunità. Per mantenuto dalla comunità Sgarbi vive dei soldi vive di soldi del suo, non è che vive di soldi della comunità, vive delle conferenze che fa, certo, dei giri sì, che fa in tutta Italia oggettivamente. Basta conoscere la storia. Ma no, ma la conosco benissimo la storia di Vittorio, per cui ti posso rispondere tranquillamente che se c'è uno dei suoi poi libri ha preso per qualche anno lo stipendio da parlamentare, sì, prende il vitalizio che dà ai figli che, avuti e che non voleva avere, eccetera, eccetera. Ma tutto si può dire tranne che Sgarbi viva di soldi pubblici, vive anche di soldi. Non dipendere dalle parole di un uomo così, ma dai, vabbè, ho capito, ma lei non apprezza, lo disistima e chi se ne frega, d'accordo? La sua idea gliela facciamo esprimere so, tranquillamente. È apprezzato dagli scapigliati che si atteggiano, scapigliati di destra, vabbè, dai. Cioè, da me stai dicendo gli scapigliati di destra, io non sono né di destra meno né scapigliato, e in ogni caso il problema vero è un altro. Cioè, lui ha detto prima. Ha detto prima che i soldi che lui prende come assessore in diversi posti sono, gli servono per pagare, in alcuni casi sono presi direttamente, non so da chi. La domanda è stata: tu prendi gli indennità? Sì, lui ha detto sì, li prendo la e mi passo a Caselli. Li passo a Caselli. La sua diffamazione dovrebbe pagarle con i suoi soldi. Ma ho capito, dovrebbe ma sono suoi, se fa l'assessore in automatico sono suoi quei soldi, no? Ma poi lo fa l'assessore in 5 comuni diversi, secondo te riesce a fare l'assessore? Gli hai detto tu, gli hai chiesto sì, tu. Sì, ho detto, è abbastanza bizzarro, però Vittorio Sgarbi, devi capire, caro amico Paolo, che è un brand. Cioè, tu fai l'assessore, poi uno può essere criticato, lo fa male, lo fa bene, eccetera. È un brand. Tu fai l'assessore, poi l'amministrazione quotidiana la gestiscono altri. E lui gestisce alcune cose, le mostre, eccetera. Va una volta a settimana, andrà una volta a settimana a Urbino, una volta a settimana dove cazzo è? A Cosenza, una volta a settimana, l'altra città che non mi ricordo qual è, la terza città in cui fa l'assessore, già me la so scordata. Dov'è? Uno è Trino, dov'era? Cosenza, Urbino e... Cosenza, Urbino e non mi ricordo dove. Vabbè, Cristina Verona, vai. E Salemi? Buonasera. E Salemi? Vai, Cristina, dimmi. Allora, io volevo portare alla vostra attenzione che l'altro ieri a Trento, sì, che è successo a Trento? Un zingaro di etnia sindi, sì, ha scippato una signora. Sì. È stato con la moto, la signora non si è persa d'animo, l'ha inseguito, ha cominciato a suonare i clacson, lui bene, ha sbandato, ha perso la strada, insomma, bene, si è schiantato contro un muro ed è morto. Sì, sì, ho letto questa notizia oggi. Sì, vedo un'altra no, di notizia, non del sapevo bidello che molestava la migrante, perché così, diciamo, se la gara è quella a chi dà più notizie rispetto a cosa fanno i sì, migranti un bidello nel nostro paese. A Ragusa, dov'è? A Ragusa, bravissimo, sì, esatto. Un bidello di 53 anni, ecco, molestava e anzi avrebbe fatto violenza sessuale nei confronti avrebbe di una immigrata di 16 anni, giusto? Un bidello di 53 anni. È stato arrestato, per ora è stato arrestato per aver abusato. No, però di una la notizia di Cristina è interessante, sedicenne, perché allora io non lo dico perché c'è la par condicio dei reati, ecco, per dire, non è che l'ho detto, però, perché scusa, adesso stiamo parlando di questa cosa, siccome non ce ne frega niente, no, di fare la par condicio. Se appunto, la signora esatto, sta dicendo un'altra cosa, questa qua, per la signora, non sapevo fosse la stessa signora che lui ha derubato, che lui ha scippato. Sì, ma si parli anche di questo bidello. Sì, Cristina. Migrante. Cristina, è la stessa signora che è stata scippata? No, che l'ha rincorso? Assolutamente, sì, è la signora che l'ha scippato. E l'ha urtato lei? Ha urtato lei il no, motorino? No, allora, le notizie in questo senso sono contrastanti, perché... Vabbè, comunque, questo qua è morto praticamente... Certo sì. certo che sì. Cioè lo scippatore è morto scappando, questa è la sostanza delle cose. Allora, che sta succedendo? Le cose scandalose da portare all'attenzione sono un paio. La prima, che nessun giornale locale tenga conto che Trento come Verona... No, ma io l'ho letto sui giornali locali, l'ho letto sui giornali di Trento. L'ha letto sulle... L'ho letto sui giornali. Esiste anche l'online. Online, che è bravo, ma che leggono pochissime persone. Ma non è vero, non è vero. Ma comunque poi... Mi creda che sì. E allora, quindi, i giornali locali ne hanno dato poca notizia, a parte appunto il giornale online, e la famiglia del... dello zingaro ha fatto causa perché vuole i danni. Sì, sì, non lo so adesso come va a finire. Si sta indagando per omicidio stradale. Forse fanno causa per la morte di questo, non lo so. Adesso domani ne parleremo con più dati. Mi segnalano. Fabio Ferrara, che il nostro amico e conoscente Luca Casarini, già leader dei centri sociali, sì, va in carcere. Casarini in carcere per che cosa? È stato condannato a 3 mesi per aver occupato abusivamente una casa ed è stata respinta la richiesta di misura alternativa e quindi finirà in carcere per 3 mesi. Perché è pazzesco? Cioè, non è pazzesco, la legge. Ho capito, però. Fabio Ferrara, vai. Ma se uno occupa una casa... 3 mesi di carcere senza attenuanti o pene alternative per il padovano Luca Casarini, ex leader dei centri sociali, anima della sinistra antagonista. In carcere per aver occupato una casetta sfitta. Una casetta sfitta. Ogni tanto accade. Adesso ti metti a difendere pure quelli che occupano le case. Le case sfitte dei comuni. E chi se ne frega? Un signore fa un gesto politico. Non lo so, vabbè, adesso ti metti a difendere Casarini. Mi fai sentire Fabio da Ferrara. Evidentemente sbagliato. Fammi sentire Fabio. Viene mandato in carcere, ma insomma, amico. Fabio Ferrara, vai. Pronto, Fabio, forza. Volevo dire a Parenzo, ha fatto mai la fossa settica? La fossa settica. Cos'è la fossa settica? Scusi, professore. Dove vanno tutte le feci che fai, tutta la cosa che fai? Non so, devi chiedere a quel signore che ha chiamato prima, lui è esperto di questa roba. No, tu devi spendere i soldi, tu non si capito, devi spendere i soldi. Adesso ho ordinato Devi chiamare uno che fa autospurgo, non è capito? Bravo, quello l'ho fatto. Adesso ho chiamato l'autospurgo, settimana prossima avrà l'autospurgo, grazie, bravo. Allora, risolvi il problema. L'autospurgo, bravo, grazie, questo è vero, l'avevo chiamato comunque autospurgo, arriverà tra qualche giorno. Bravo, sicuro quello, sicuro. Grazie, le puttane. Come? Vabbè, questo io le puttane. In che senso io le puttane? Scusa, Fabio. Sono andato ieri sera, dai. Una roba bella, sono andato ieri sera. Dove? Ah, sei andato ieri sera? Dove sei andato? Maiale che si vanta pure. Ma dove? Per strada oppure appuntamento? Per strada. Cioè, ti sei caricato una per strada? Sì. Sì, vergogna, se era sfruttata, sicuro, schifoso. Com'era? Di che nazionalità era? Rumena. Rumena? Sì. Ma sei camionista tu? Sì. Dove te la sei fatta? Borgo Panigale, Bologna. Ma dentro il camion hai fatto? Sì. Mamma mia, ragazzi. Quanto hai pagato? 30 euro? Ma tutto hai fatto? Tutto che? No, ma il rapporto sessuale, tutto? Sì. 30 euro, e che? Mamma mia, proprio uno sconto, proprio un prezzaccio. Ma perché è schifoso? Non schifoso, ho capito. Schifoso, raccattato dalla strada così. Ma perché è raccattato dalla strada? Perché ha detto lui, lo ha detto lui. Non giustificare lo schifoso miserabile che paga 30 euro una donna presa per strada. Non difenderlo. Ma perché? Perché Fabio, ti chiamo domani, Fabio, ti chiamo sfruttatore, miserabile sfruttatore. Ma quando mai, dai. YouPorn o Zanzara? YouPorn o Zanzara? YouPorn. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.